Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria molto ricca, devo dire, anche se non, ahimè, di notizie così belle. Allora, per quello che riguarda intanto le notizie che arrivano sostanzialmente dall'Europa, è terminato oggi il vertice dei ministri economico-finanziari tedesco da un lato e anche italiano dall'altro, mi riferisco a Giulio Tremonti e Christine Lagarde, perché si è discusso di nuovo capitalismo, nuovi modelli di capitalismo, ma soprattutto da questo punto di vista si è di nuovo ampliata l'incertezza su quelli che potrebbero essere i nuovi attacchi speculativi all'Europa. Perché lo dico? Perché questo è avvenuto nella giornata in cui di nuovo sono aumentati i rendimenti, quindi la differenza tra quanto rendono le obbligazioni portoghesi, irlandesi, spagnole, italiane nei confronti di quelle tedesche, si chiama spread, e non è una bella notizia, e sono schizzati ai massimi anche i cosiddetti CDS, ossia i premi che devono essere pagati per assicurarsi, per la polizza, per assicurarsi sul debito, in questo caso irlandese e belga, e quindi di nuovo ampio spazio per manovre speculative. L'euro nel frattempo scende sotto quota 1,30, 1,296, le borse vanno peggio le altre di quella italiana, meno 0,3 Milano, meno 0,90 Parigi, meno 0,40 Francoforte, meno 0,50 Londra, l'America meno 0,21, di nuovo molto forte oggi Fiat Industrial, e invece di nuovo cala Fiat Auto, come la chiamiamo noi, o Fiat SPA, per essere più tecnici, anche se adesso il calo è marginale, meno 0,1%. Peggior titolo Buzzi Unice, meno 3%, Intesa meno 2,30%. Miglior titolo Fiat Industrial, più 5,60%, Tods, più 2,6%. Ansaldo, che ha avuto una mega commessa per la metropolitana di Copenaghen, Ansaldo STS, vinta dal gruppo italiano Salini, e Ansaldo STS, più 1,6%, ce ne occuperemo durante i mercati. 349-238-6666 per i vostri sms. Gli altri temi che tratteremo sono, in apertura, subito un dato sulla disoccupazione drammatico, non quella italiana che complessivamente resta ferma, ma quella dei giovani porta l'Italia al record in Europa, un record storico. A Napoli si arriva, secondo la statistica, al 40% di disoccupazione giovanile. Forse è il caso che anche la politica inizi a occuparsi di queste cose. E poi, nella seconda ora del programma, avremo invece un altro imprenditore di quelli che hanno accettato la sfida con la Cina, che è andato lì a produrre e a esportare, quindi fa produrre ai cinesi merce che poi gli rivende ai cinesi stessi, l'unico modo per affrontare e cavalcare i mutamenti storici e non rifiutarli a riccio, alzando i ponti levatoi. Le notizie in breve. Allora, la banca centrale cinese, che insomma la Cina si sta comprando il debito europeo, ci sta salvando, piaccia o non piaccia, ha detto: noi siamo fiduciosi in Europa, anche perché abbiamo comprato, questo lo aggiungo io, 640 miliardi di euro di debito europeo, ne stanno comprando altri 7 miliardi di debito portoghese e spagnolo, quindi sono molto fiduciosi, e questo fa piacere anche a noi, perché appunto il rischio, il fallimento dell'Irlanda e del Belgio ha toccato un nuovo record. Lo spread anche delle obbligazioni italiane con l'obbligazione tedesca è a 191 punti, il livello più alto dal 30 novembre scorso, e tutte le tensioni aumentano anche su tutti gli altri titoli dei paesi a rischio, e la Svizzera ha deciso di non acquistare più obbligazioni portoghesi, titoli di Stato portoghese. Il voto, il rating è troppo basso per le banche svizzere. Petrolio 89 dollari, oro ancora in calo a 1367 dollari l'oncia. Di Copenaghen diremo più avanti. Adesso avviciniamoci al tema di apertura, ossia la disoccupazione in Italia. Perché oggi non c'è solo la disoccupazione italiana, c'è anche la disoccupazione americana. Oh, vedo un messaggio al 349-238-6666 che secondo me è veramente la chiave di volta, complimenti. C'è chi scrive e dice: i cinesi comprano il debito europeo per sostenere il proprio mercato. È sicuramente così. I cinesi sanno che se l'Europa dovesse collassare sui suoi debiti sovrani e dovesse esserci una manovra fiscale, diciamo, da mettere tutti i consumatori in ginocchio, noi non consumeremo più prodotti fatti in Cina e quindi ci mantiene in vita. Non so se sia, diciamo, accanimento terapeutico, come scrive qualcuno, non so se sia eutanasia, ma insomma ci mantiene in vita anche perché noi rappresentiamo un mercato di sbocco importante per i prodotti cinesi, non è solo il nostro export lì. Certo che la Cina non ha nessun interesse che l'Europa collassi, come il rigore tedesco sembrerebbe, perlomeno a parole, a chiacchiere, volere. Poi in realtà, quando le banche tedesche sono esposte verso il Portogallo e l'Irlanda, lì il salvataggio parte subito, anche i tedeschi tengono famiglia. Allora, la disoccupazione americana scende al 9,4%, però scende meno delle attese. Sono stati creati 103.000 posti di lavoro in dicembre negli Stati Uniti contro i 150.000 attesi. Ed è il tasso di disoccupazione americano, è quindi sopra il 9% dal maggio del 2009. Sono 20 mesi, non era mai successo che la disoccupazione americana restasse per 20 mesi sopra il 9% dalla Seconda Guerra Mondiale. E comunque il 9,6% di disoccupati in America è il livello più alto dal 1983, Ronald Reagan. Cioè, questo per dare la portata della crisi, che secondo alcuni non c'era, era dovuta ai media, ai pessimisti, ai gufi. Tant'è che il numero uno della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, dice ci vorranno dai 4 ai 5 anni per normalizzare il mercato del lavoro. Il mercato immobiliare infatti resta depresso, anche se c'è una ripresa complessiva dell'economia, un po' più forte delle attese, ma insomma nulla di quello potrebbe cambiare lo scenario. E allora, se l'America è alle prese con una disoccupazione che pur calando resta la più alta dal 1983, resta consecutivamente la più alta dalla Seconda Guerra Mondiale, oggi diffusi dati anche in Italia sulla disoccupazione. Ripeto, il dato preoccupante non è la disoccupazione complessiva, ma è, siamo, sì, per carità, all'8,7%, è il livello più alto dal gennaio 2004. Siamo un po' meno, è un po' più basso rispetto alla disoccupazione europea, anche se noi non teniamo in considerazione la cassa integrazione. Però quello che obiettivamente lascia basiti è il dato sulla disoccupazione giovanile italiana. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Lo so, scrive Gianni, è proprio una iniezione di allegria ascoltarvi. Oh, noi cerchiamo anche di essere spiritosi ogni tanto, però questo è quello che passa al convento. E questo dobbiamo, per dovere deontologico, raccontare. Allora, cosa raccontiamo? Raccontiamo che in Europa la disoccupazione ha toccato il 10,1% anche a novembre. E vabbè, si fa per dire. Ma in Italia, dove resta all'8,7%, sta salendo, molti dicono, se voi contaste, come dice la Banca d'Italia, anche i cassi integrati, avreste la disoccupazione a livello europeo. Però, insomma, in Italia dove sta crescendo molto è la disoccupazione giovanile. 28,9%, cioè vuol dire 28,9% dei giovani disoccupati, tre volte tanto la media, diciamo, degli adulti. Non solo, siamo ai massimi dal 2004 e se si vanno a vedere alcune percentuali nel nostro mezzogiorno, i livelli sono, io non so, non so neanche come definirli. Cioè è vero che c'è il lavoro nero al sud e non solo, tutto quello che volete, ma insomma tra i 15 e i 24 anni si arriva al 35% nel sud, chiaramente colpiti i giovani e colpite le donne, quindi giovane donna è il massimo della sfiga in questo paese. Le ragazze addirittura il 36%, al nord le cose vanno un po' meglio, la disoccupazione giovanile al 18%, nelle regioni del centro al 22%. Poi dite, vabbè, ma ci sono anche gli altri paesi europei, vediamo come vanno gli altri paesi europei. In Germania la disoccupazione dei giovani dai 15 ai 24 è al 9%, cioè è un terzo di quella italiana ed è un quarto di quella italiana del sud. In Francia è alta, al 21%, ma sempre 9 punti in meno. In Gran Bretagna al 19%, 10 punti in meno rispetto a noi. In Spagna è l'unico paese che ci batte, ma non mi sembra un gran modello, insomma, la Spagna, la disoccupazione giovanile è al 40%, cioè la media del nostro mezzogiorno ce l'ha tutta la Spagna. America 19%, Giappone 9,9%, Irlanda 28,2%. Dottor Giuseppe Roma, direttore del Censis, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, io ho detto prima con una battuta che forse lei mi criticherà, perché lei e il suo presidente De Rita raccontate l'Italia tutti gli anni. Ho detto, essere in questo paese giovani e donne è una sfiga, a meno che non si facciano lavori non eticamente consigliabili, diciamo, visto i casi degli ultimi mesi. È un po' forte? No, no, è molto giusto, e anche il dato che lei citava del mezzogiorno riguarda effettivamente non soltanto donne meridionali, ma anche poco istruite, cioè persone che sono fortemente ai margini della vita civile. Sappiamo che il dato di disoccupazione deve essere integrato con quei 2 milioni di giovani che non studiano, non lavorano, non cercano neanche lavoro. Quindi noi abbiamo un enorme problema giovanile, non lo possiamo negare. Ci può forse consolare che in altri paesi, ha citato il dato della Francia, che è abbastanza in linea col nostro, però è anche vero che la disoccupazione giovanile c'è meno dove ci sono due condizioni. La prima condizione è che sono paesi in crescita. La Germania ha una bassa disoccupazione, che vuol dire molti giovani sono chiamati a entrare nel mercato del lavoro, vuol dire che c'è domanda di lavoro, vuol dire che c'è produzione, vuol dire che c'è sviluppo. E infatti credo che i dati della disoccupazione debbano essere messi in relazione con i dati che pure oggi l'Eurostat ha dato, che riguardano il prodotto interno lordo. E noi oggi, se ho fatto qualche modestissimo calcolo, nella crisi noi fra il 2010 e il 2011 avremo recuperato circa un 2%, poco più del 2%, cioè per ritornare al livello ante-crisi noi dobbiamo crescere ancora di 4 punti. La Germania a fine 2011 rispetto al periodo ante-crisi avrà guadagnato un 1,5%, cioè a fine 2011 la Germania avrà completamente assorbito la crisi in termini di produzione, e questo vale anche per la Francia. Quindi questo è il primo fattore. Il secondo fattore è che, giustamente ha detto, la Francia c'è una disoccupazione come la nostra, quindi pur essendo cresciuta i giovani non entrano nel mercato del lavoro. E qui c'è la secondo aspetto, che è il dualismo dei mercati del lavoro. Mercati del lavoro che hanno una forte protezione dell'occupazione finiscono per essere, in un periodo in cui le risorse pubbliche scarseggiano e quindi non è facile poter intervenire con politiche anticongiunturali rispetto alla crescita dell'occupazione, è chiaro che se difendiamo gli occupati diamo meno spazio a quelli che nel mercato del lavoro devono entrare. Allora io ho invitato, diciamo, un economista sociologo, perché di mercato del lavoro parliamo spesso con gli economisti del lavoro, addirittura con i giuslavoristi. A me interessa anche un altro aspetto che non è solo quello della domanda e dell'offerta. Perché lo dico? Perché uno dei messaggi, infatti, sta arrivando a grappoli messaggi del genere, che arrivano in questi casi è questo. Dottor Roma, va bene, la disoccupazione è altissima, ma ci siamo mai chiesti che lavori i giovani anche del sud sono disposti a fare, visto che badanti, colf, coltivatori diretti no? Due, Ci siamo mai chiesti perché però poi tutti questi si laureano in scienza della comunicazione, in scienza della fuffa, nessuno vuol fare l'ingegnere, nessuno vuol fare le discipline più, diciamo, più legate al mercato del lavoro, nessuno vuol fare più gli studi tecnici, tutti quanti al liceo. Tre, ci siamo mai chiesti perché i giovani vogliono stare col lavoro sotto casa, la pappa calda, non sono più disposti a muoversi e spostarsi. Quindi c'è una critica, diciamo, culturale e sociologica a questo dato. Lei l'accetta o no? Ma no, è giustissimo anche questo. Certo, ogni deve avere le sue proporzioni. Quando noi parliamo di 2 milioni di disoccupati, c'è un problema che ha una sua logica macro, grande. Però è anche molto vero quello che si dice, perché le piccole imprese dell'artigianato denunciano la mancanza di 200-300 mila posti di lavoro, cioè stiamo parlando circa dell'1% dell'occupazione, quindi potrebbe portare a qualche significativo risultato positivo. E ci sono tutta una serie di mestieri, ma io non dico soltanto quelli più umili, ma anche semplicemente quelli tecnici, quelli manuali, e noi abbiamo creato una generazione di impiegati, e quindi l'andare all'università non è tanto più uno strumento per poter acquisire delle conoscenze da applicare poi anche come meccanico, perché non è detto, oggi se pensiamo a tante professioni, penso ai posturisti, ai fisioterapisti, quelli che una volta erano professioni che si imparavano facendole, oggi hanno lauree brevi e hanno soprattutto una carriera straordinariamente ricca professionalmente e anche dal punto di vista dell'occupazione. Noi non abbiamo migliorato quei lavori che in tutti gli altri paesi, da quello agricolo alla manutenzione, all'idraulico, il meccanico, il falegname, l'artigiano, hanno culturalmente la stessa identica dignità di un qualsiasi altro lavoro. Questo ma è un perché, discorso giusto, ma perché? Ma non ci risolverebbe tutti i problemi, ma una metà dei problemi forse sì. Ma perché da noi ci si vergogna a fare certi lavori? Roma? Diciamolo francamente, siamo un paese che ha faticato molto per arrivare dove è arrivato, adesso vuole faticare un po' di meno. E quindi ci sono lavori in cui degli arti alle 6 di mattina, ci sono lavori dove anche se arrivi alle 9 nessuno gli dice nulla. E purtroppo, cioè, lei dobbiamo dice, riprendere vediamo se ho capito. Lei dice un paese che che è arrivato per ultimo al tavolo, diciamo, dei paesi ricchi, che si è seduto per ultimo a tavola, si vuole alzare anche per ultimo, ha un po' più fame, conosce un po' meno bene le maniere, un po' più parvenu, un po' più così arricchito. No, e noi adesso di fare i lavori dei nostri nonni, dei nostri padri, proprio perché i nostri padri ci hanno fatto studiare, hanno investito perché non facessimo i camerieri, gli emigranti, i contadini e le commesse, non cioè preferiamo stare a 800 euro interinali in qualche call center .com piuttosto che guadagnare 1.200 e lasciare questi lavori invece alle pompe di benzina, ripeto, lavori nei servizi anche agli extracomunitari? Sì, e in più si aggiunge anche un tipo di mentalità in cui il lavoro si è un po' una mentalità tardo-marziana, cioè si è distaccato dal soggetto, cioè io non lavoro tanto perché in questo modo esplico una mia voglia di creatività, di professionalità, di etica, di responsabilità, quello che ti pare, però è una cosa che vale per me, no, io il lavoro è una specie di orpello che mi serve per sopravvivere, poi la mia vita è un'altra, questo è tipico di paesi che hanno fatto un lungo inseguimento e ancora non sono maturi per capire che invece le dinamiche sono a tutto campo. Ho raccontato molto spesso quando parlo di queste cose che in altri paesi ci sono i figli dei dottori che vanno a fare i contadini e invece noi siamo ancora nella mentalità che il figlio del contadino deve fare il dottore. No, no, guardi, qui Roma qui è peggio, è che il figlio del dottore, del professore che insegna medicina va a fare professore di medicina, questo è il problema. No, va a fare, può fare anche l'impiegato perché, in banca che non fa nulla, insomma, perché certo, i baroni. Casi. Però voglio dire, questa condizione generalizzata, non avremmo il 30-40% di disoccupazione se fosse solo un fatto, come dire, di eguaglianze sociali, e che c'è una generalizzata incapacità di affrontare da tutti. Ripeto, io ho voluto dare prima quelli strutturali perché quello è un problema strutturale. Sì, se la torta non cresce, è difficile che noi possiamo immettere nuove. Ho capito, ma non ci anche se togliamo, anche se dovessimo eliminare tutti i lavori improduttivi, togliamo di mezzo tante persone che magari nel pubblico e nel privato producono poco, ma quelli sarebbero poi disoccupati, quindi non risolve, è a somma zero. Se non cresce sì, la torta, però a Roma qualcosa bisogna fare, nel senso che non si può accettare la disoccupazione più alta, cioè il 40% di disoccupazione giovanile nelle donne del sud, e dire vabbè, è perché nessuno vuole fare più lavori socialmente poco prestigiosi. Allora io chiedo, secondo lei la politica, al di là dei modelli che non sta dando e quindi che dovrebbe fornire invece di piazzare parenti, figli dappertutto, ma dico, può fare qualcosa come iniziativa legislativa, oppure un processo culturale non si governa politicamente, si governa con i tempi, diciamo, dei processi culturali che non sono i tempi della politica? Intanto la politica dovrebbe smettere di fare quello che si faceva negli anni 60, cioè creare l'occupazione direttamente assumendo in maniera clientelare migliaia di giovani, e questo è anche un segnale diseducativo. Quindi non bisogna pensare, di fronte a questo problema, di dare tre mesi di borse di studio, come è successo in qualche regione, spendendo un sacco di soldi. La politica dovrebbe incentivare che cosa? Due cose. Uno, la domanda delle imprese. Per esempio, questo giorno io credo che il credito d'imposta ha fatto molto emergere molto lavoro nero, irregolare, a diventare regolare, che è già qualcosa di positivo. Ma poi dovrebbe dare un messaggio ai giovani di maggiore iniziativa. Io l'ho già detto altre volte, ma detassare per tre anni cooperative o gruppi di giovani che si mettono a fare lavori di industriale, si prova, si vede. È chiaro che poi si potrà dire, ma poi ci saranno sempre testeranno le società e allora diciamo incentiviamo tutte quelle società che sono di giovani, che sono già cresciute, che sono già nate da un anno, e quindi il terzo e il quarto anno le facciamo sopravvivere. Però diamo, cioè è inutile fare le campagne sul lavoro tecnico e manuale, ma diamo delle strutture, degli strumenti, la formazione, facciamola diventare una specie di back office per chi vuole andare a fare l'idraulico, l'artigiano col camice, come si fa in tutta Europa, con una dignità con cui si fa in tutta Europa. Cioè la politica può fare tanto, ma non noi la politica la consideriamo solo qualcosa in cui deve dare dei soldi, no, sia a destra che a sinistra. A destra nel senso che magari si fa un po' di occupazione clientelare, comunque chi ha il potere di farlo lo fa così, e dall'altra parte si chiedono più soldi. No, ci vogliono più idee, più politica, perché se non si muove questa generazione, se questa generazione la utilizziamo fino in fondo, sarà non solo molto grave, una società non può andare avanti solo con gli adulti e con gli anziani, se non spingono i giovani è veramente molto difficile. In più poi avremo anche il peso assistenziale di milioni di persone. Allora, d'accordo con lei che la politica possa fare, in effetti questo è un tema che affronteremo anche nel corso del 2011, giustissimo, più volte abbiamo elogiato il ministro Tremonti, tener botta sui conti pubblici, attenzione però, non si può fare solo la famiglia che tiene chiusa la cassaforte, ogni tanto qualcosa bisogna fare. Per esempio, mi piace moltissimo la vostra proposta di avvantaggiare fiscalmente, quasi defiscalizzare le società create da giovani, da sotto i 30 anni poniamo, così come mi piace quanto hanno chiesto gli industriali quando si dice aiutate fiscalmente le imprese che si vogliono fondere, che si vogliono mettere in rete. Cioè la politica qualcosa deve fare, non si può solo dire non ci sono i soldi e che cavolo Tremonti. Allora, detto ciò, Roma, vorremmo capire un'ultima cosa. Secondo lei, ce lo scrivono molti ascoltatori, tutto questo tentativo che noi stiamo facendo per invertire un tasso di disoccupazione che ha toccato il 35% nel sud è velleitario, così è fuffa, è chiacchiericcio, perché il futuro non è più quello di una volta? Ma guardi, il futuro non è quello di una volta, è certo, nel senso che le condizioni sono state, tutto è molto più difficile. Però io credo noi siamo ancora un grande paese con tantissime risorse, ma anche pubbliche. Il problema è come si spendono queste risorse pubbliche, perché io penso che al di là della giusta politica restrittiva c'è un problema di spesa pubblica. Leggevo anche questa mattina i dati, ma il 51% del PIL è spesa pubblica, la metà di tutto quello che si produce sta nelle mani di qualcuno che viene eletto dal popolo per spenderla bene. Allora io penso che questi tassi, il problema dei giovani e quindi dell'occupazione sarà un come quello della ripresa, no? Durerà anni, qualche anno, nel 2011. Io penso che il 2011 sia un anno che io chiamo di rimbalzo, cioè dove alla fine non tutto ci scivolerà addosso, così per cui continuiamo ogni volta, ogni mese che escono i dati di Stato di Regione non succede nulla, qualcosa succederà perché mi sembra maturo. Quindi è però una risoluzione di lungo periodo. Io credo che dovremmo cominciare a usare bene le risorse che abbiamo. E guardi che ancora nel sud sappiamo che ci sono miliardi non spesi perché i corsi di formazione sono oggetto di lotte e di interessi, ma qualcuno che dica io con questi soldi del Fondo Sociale Europeo faccio la formazione e il back office per i giovani che vogliono fare gli artigiani, ancora non lo so. Cioè noi dobbiamo passare dalla spesa che serve da dare in mano alle persone che hanno bisogno a una serie di servizi che consentono alle persone di accedere al mercato. Questa è una diversità gigantesca. Potrà abbattere la disoccupazione, non ai livelli tedeschi, ma almeno a quelli francesi, qualche punto di... Guardi, poi in queste cose il vento gira quando le tendenze... Se noi invece di avere 3 punti in su abbiamo 3 punti in giù, vuol dire qualcosa sta succedendo. Allora adesso le chiedo se questo è il modo di, diciamo, far ripartire l'occupazione giovanile. Vi ha messo la musica un po' morbida a Roma, perché questo farà saltare sulla sedia più di un ascoltatore, anche lei. Allora vi prepariamo. Non bastavano 4.900 persone per colmare i vuoti di organico in Sicilia nella sanità? 4.900 persone? No. No, perché la Regione Sicilia finisce di nuovo sotto tiro per un bando rivolto a 8.400 persone, giovani, immaginiamo, da impiegare come stagisti per un anno a 500 euro al mese. Poi Lombardo dice che c'è un complotto contro di lui. 8.400 persone per un anno a 500 euro al mese, è così che si esce dal tasso del 36%, Roma? No, così non si esce, anzi si aggrava la situazione, sia dal punto di vista dell'utilizzo degli investimenti pubblici, sia dal punto di vista della cultura collettiva, perché alla fine se non sei amico degli amici pensi che uno che o se ne va all'estero oppure perennemente deve vivere sotto le colpe della mamma. E quindi io credo che effettivamente questa logica, che è una logica che adesso al di là di chi parte la Sicilia, guardi, si fanno in tanti altri posti, a Roma, nel nord, non è solo sempre e comunque la Sicilia, perché ogni posto di lavoro è anche una possibile logica di consenso. È un certo voto di scambio. Non chiamiamolo di scambio proprio, ma insomma, quindi... Come vede, certamente noi, addirittura esasperando il tema dell'occupazione giovanile, poi diamo adito anche a che vengano giustificati interventi che secondo me c'entrano poco. 500 euro al mese per un anno. È quello che si spendevano qualche, non so se un miliardo o più, insomma, si spendevano risorse molto significative. Quindi, vabbè, Roma, buon fine settimana. Altrettanto, arrivederci. Buon anno. Sarà un anno meglio di come ma appare. Ma senta la nostra musica, andrà tutto bene. Beh, arrivederci. Tutto bene, arrivederci. €6,5 milioni di euro è per inciso il costo di questa iniziativa della Regione Sicilia. Fondi destinati a enti, associazioni e fondazioni no profit, col compito di selezionare i candidati da inviare poi nelle aziende per mansioni ancora da stabilire. Bellissimo. Ci sono i soldi, non c'è la mansione. È un nuovo modello. Se lo sanno i cinesi, vanno in crisi d'identità. Invece noi andiamo in pubblicità, meteo e poi la borsa e poi parliamo con Jean-Paul Fitoussi, reduce del meeting con Tremonti, Stiglitz e Lagarde a Parigi. Nouveau monde, nouveau capitalisme. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parleremo anche di borsa. Nel frattempo qualche notizia in breve arrivata che si lega anche alla borsa. Vorrei tenere questa base di speranza che ci mette un po' d'allegria. Fuori piove, c'è freddo, la disoccupazione giovanile ai massimi, quella americana pure. Combattiamola con la musica. Non solo la Cina si sta comprando il debito europeo, l'Industrial and Commercial Bank of China si appresta a sbarcare in Italia. Una banca, lunedì 17 gennaio verrà data in l'annuncio, verrà presentata a livello europeo, infatti avrà filiali in Francia, Spagna, Belgio e Olanda. Attenzione alle banche italiane, arriva la concorrenza cinese anche per voi, magari. Pensate che questa banca, fondata nel 1984, vanta un doppio primato mondiale in termini di profitti e di capitalizzazione del mercato. L'anno scorso ha fatto più 27% di utile, a 12 miliardi e mezzo di dollari, e quindi più 27% rispetto al 2009. Chissà come che tassi ci farà il conto per le spese per il conto corrente, la portabilità del conto, il tetto di massimo scoperto. Va bene, passiamo alla borsa. Meno 0,46% Milano, meno 1% Parigi, mezzo punto percentuale di calo Francoforte, scusate, Londra meno 0,52, euro sotto quota 1,30, 1,2929, e per quello che riguarda i titoli Fiat, di nuovo si è invertita la tendenza, ossia industrial, che vuol dire camion e trattori, più 6,1%, Fiat SPA oggi, ossia Fiat Auto, ferma 0,00. Tra l'altro a questo punto Fiat Industrial vale 9,60 euro, Fiat SPA, Fiat Auto vale 7,45 euro. Siamo a 17 euro per azione rispetto a un prezzo di chiusura della vecchia Fiat a 15,40 euro il 30 dicembre. Eleonora Micheli, buonasera a tutti. Radio Colle sulle 24 ore. Allora, su cosa scommette per la parte industrial il mercato? Ma innanzitutto si valutano i fondamentali della società. È vero che inizialmente nei primi giorni della settimana si era acquistato soprattutto le Fiat SPA, del resto si inizia a ipotizzare che cosa succederà soprattutto con Chrysler, già si ipotizzano, si è iniziato a parlare anche di un eventuale assegnazione di Fiat Automobile, gruppo Automobile, quello che appunto detiene i marchi Fiat, Lancia e via dicendo, fatta eccezione di Ferrari e Maserati, in Chrysler. Insomma, si iniziano a pensare a una serie di operazioni straordinarie, quindi questo aveva dato il là a ordini in acquisto soprattutto sulle Fiat SPA. D'altra parte, negli ultimi giorni ci si è resi conto che Fiat Industrial è interessante, perché nel caso in cui ci sia una ripresa, ovviamente soprattutto CNH e Iveco ne beneficeranno. CNH produce infatti macchine agricole e Iveco appunto camion, e in questo caso, dicono gli analisti, non c'è l'effetto emotivo che si riscontra nel settore dell'auto, dove un modello può incontrare ovviamente il mercato. Ma può, allora, quindi tu dici, con la ripresa economica in corso, macchine movimento terra e camion chiaramente se ne avvantaggiano. Andiamo rapidi, Prismian ancora sulla notizia che la cinese Xin Mao si è ritirata dalla gara per Draca, guadagna più 1,5%. Ansaldo STS ha perfezionato l'accordo per la metropolitana di Copenaghen. Abbiamo avuto ospite sia il numero 1 di Ansaldo STS a suo tempo che il numero 1 della Salini Costruzioni. Hanno vinto ambedue. Valore importante della commessa, il titolo? Il titolo oggi ha frenato dello 0,2%, ricordiamo però che aveva fatto molto bene nei giorni precedenti, e quindi si può parlare in questo caso di realizzi. Allora, ancora, su chi invece perde Buzzi Unicem in 3,30%, costruzioni deboli oggi, ma deboli anche tutti i bancari, Intesa San Paolo meno 2,30%, Monte dei Paschi meno 1,70%, Generali meno 1,60%, Ubibanca meno 1,60%, come Unicredito, Banco Popolare meno 1,34%, come la Popolare di Milano e Mediobanca, bancari e Buzzi Unicem. bancari sono andati male in tutta Europa, meno 0,9% il sottoindice europeo, così come sono andate male, come hai detto tu, anche il settore delle costruzioni in tutta Europa, meno 0,6% l'indice. E, ovviamente in questo caso, anche se tratta un po' di rivisitazione del portafoglio, le banche avevano cercato di risalire la china, soprattutto nel mese di dicembre. Evidentemente c'è chi ha deciso di rivedere la propria composizione del portafoglio. Quanto a Buzzi, si teme che ci possa essere una revisione del consensus sulle stime future, e quindi questo possa penalizzare evidentemente la società, che comunque nel mese di dicembre ha fatto molto bene, sì, le azioni erano salite del 20% circa. Miglior titolo, K-Police Investment, ingresso di investitore nel capitale, porta al titolo più 11%, TAS più 9,9%, Cell Therapeutics più 8,60%, poi tutte le Fiat, Industrial, Privilegio, Risparmio, e Poltrona Frau sempre molto forte, più 5,45%, Pininfarina anche qui nel mirino dei cinesi, mirino positivo, più 4,26%, fronte opposto invece, Neurosoft meno 10,1%, Società Generale meno 4,91%. Allora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore, grazie. Grazie a tutti. Allora, visto che le piacciono così tanto i cinesi e gli islamici, perché non si trasferisce in quei paesi, visto che le piace così tanto quella genia? Bravo, è così che affrontiamo la globalizzazione. Traffico. Focus Economia. Allora, sì, va bene, ogni tanto arriva qualche messaggio di critica, ma va bene così, al 349-238-6666, continuare a pensare che noi stiamo difendendo e esaltando la Cina, poi paesi islamici, non so perché, semplicemente perché vi stiamo raccontando come da lì arrivino le linee guida per l'economia e la finanza del XXI secolo, e come confondere il medico che diagnostica un problema con la causa del problema stesso, ma è un tipico tentativo di tagliarsi la cosa più cara quando si scopre che la moglie vi ha tradito. Adesso parliamo invece del vertice di Parigi, che oggi è terminato, presenti Christine Lagarde, che è ministro dell'economia e delle finanze francese, Giulio Tremonti, che ieri ha parlato, oggi su tutti i giornali l'abbiamo anche ascoltato, il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme, incontro organizzato da Enrique Besson, ministro dell'industria francese, era presente anche un altro economista che sarà nostro ospite. Eh sì, perché tra i vari ospiti c'era anche l'economista e nonché presidente dell'Osservatorio francese sulla congiuntura economica, Jean-Paul Fitoussi. Allora, dottor Fitoussi, professor Fitoussi, buonasera. Buonasera. Abbiamo scelto una musica un po' turco, arabeggiante, per un'Europa che deve guardare anche al di là, o che sta diventando un paese, diciamo, un po' più fragile, ma al di là della battuta, insomma, ieri il ministro Tremonti ha gelato molti entusiasmi dicendo la crisi tutt'altro che finita, la speculazione sta tornando al punto di partenza, perché salvando le banche abbiamo salvato anche gli speculatori. Visto che lei ha partecipato anche oggi al vertice, cos'altro è emerso? E poi vediamo un commento alla nuova speculazione sui titoli sovrani europei. Professore. Ma è la terza edizione di questo convegno, e il primo anno abbiamo studiato le cause della crisi, secondo anno la reazione dei governi, e il terzo anno, vuole dire quest'anno, si trattava delle politiche da seguire per fare nascere un mondo nuovo, un nuovo capitalismo. E dunque si è parlato sia delle politiche macroeconomiche che delle politiche sociali, delle politiche strutturali, ma anche della regolazione globale a livello sia del settore della finanza che della riforma del sistema monetario internazionale. E questo è stato discusso durante 2 giorni, io sono responsabile del programma scientifico di questo convegno e abbiamo messo le dite dove fa male. Sulla ferita. Ecco, mi scusi, professor Fitoussi, mentre lei, il premio Nobel Stiglitz, il ministro Tremonti, il ministro francese Lagarde, discutevate del nuovo mondo, di un nuovo capitalismo, di un nuovo modello di capitalismo, il vecchio capitalismo ha ripreso, passata la festa, il Capodanno, ha ripreso a scommettere sulla tenuta dei debiti sovrani. Nel senso che sono a record i rendimenti di Italia, Portogallo e Spagna come differenza rispetto a quelli tedeschi, i contratti di polizza assicurativa sul debito del Belgio e dell'Irlanda, diciamo, sono schizzati a record e molti, da un po' di giorni osserviamo che se non ci fosse la Cina ad aver comprato 630 miliardi di debito europeo, saremmo di nuovo sulle montagne russe. Ci sta salvando la Cina? Il problema è che la Cina ci sta salvando, tra virgolette, perché noi non vogliamo salvarci da solo. E uno dei punti che ho fatto in questo convegno è che il problema dell'Europa non è economico, è politico. Quanto durerà l'esitazione europea a mettere in moto un vero meccanismo di solidarietà finanziaria, si apre delle finestre di opportunità per la speculazione. E quello che sono sicuro è che la speculazione va a entrare in tutte queste finestre. Dunque non c'è, per me non è una sorpresa Certo, che i ma lei sta mercati dicendo hanno che, ricominciato. lei, professor Fitoussi, sta dicendo che siccome noi non vogliamo salvarci, cioè non vogliamo creare che cosa? Delle euro obbligazioni, gli euro bond, ecco, cioè, e quindi la sua è una critica alla posizione tedesca, del rigore su tutto? Ma sì, perché il problema è che il rigore non è credibile come modo di salvare l'economia europea. Il rigore crea più di problemi che ne solva, che ne risolve. Perché? Perché siamo interdipendenti. Se tutti i paesi europei fanno il rigore, allora il surplus tedesco sparirà e l'economia tedesca sarà nei guai. E la ragione perché i mercati fanno questa speculazione, se non si salva un paese che è sottomesso alla speculazione, dove i titoli pubblici sono sottomessi alla speculazione, allora le banche di tutti i paesi, in primo luogo le banche tedesche, saranno in un Travolte, è guaio. certo. E Anche per... dunque, questo si sa, questo è un gioco dove tutti sono sicuro di guadagnare, i mercati sono sicuri di guadagnare, perché non si può fare altrimenti che deve divenire al soccorso dei paesi che sono attaccati dalla Quindi lei speculazione. dice, lei Dunque, dice. il problema è che quello che non si capisce è perché non si decide di avere un meccanismo di solidarietà totale, automatico, Certo, e per i vari paesi. finanziando tutto dall'emissione di Eurobonds. Ecco, allora io su questo ho un'ultima domanda per lei. Cioè, lei dice: attenzione, in questo momento chi investe scommettendo, sa che comunque vince, perché tanto verranno salvate per forza le banche di questi paesi e i paesi stessi, come abbiamo visto con la Grecia e con l'Irlanda, perché nessuna banca europea, tedesca, francese, può permettersi il lusso di vedere saltare per aria gli investimenti, i crediti che ha concesso all'Irlanda, al Portogallo, e parliamo di decine di miliardi di euro per ogni singolo paese. La Germania e la Francia erano esposte complessivamente per 140 miliardi nei confronti dell'Irlanda, non poca roba. E lei dice, quindi, in questo momento, finché tanto si sa che nessun paese salterà, gli speculatori hanno gioco facile, bisognerebbe invece avere un meccanismo automatico in cui neanche la fa iniziare questa speculazione. Domanda, la posizione del rigore, cioè del non salvataggio automatico, è sostenuta da Angela Merkel in primo luogo, ma ha avuto l'appoggio, il no agli Eurobond, anche di Nicolas Sarkozy, e oggi Jean-Claude Trichet, un altro francese che però ragiona come un tedesco delle volte, fitussi, dice, parlando in Baviera, ognuno si assuma le sue responsabilità, la Banca Centrale Europea non sarà la rete di protezione per gli errori dei governi. Allora, come mai Francia e Germania invece non l'ascoltano, Fitoussi? Questo è lei politica. Con Sarkozy ne ha parlato lei? Non è economia, è politica. Il problema è che il governo tedesco è debole e deve fare finta di non volere pagare per gli errori degli altri paesi, dicendo che il contribuente tedesco non pagherà per gli errori del Portogallo o del Belgio, eccetera. E questo è il discorso politico, ma quello che non emerge in questo discorso politico è che ha fatto questo meccanismo di solidarietà che si metterebbe in mosso, sarà un meccanismo per salvare le banche tedesche, non il Portogallo, perché se il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e altri paesi sono dei guai, sono le banche dei paesi forti che saranno salvate, dice. Sì. Però, dunque, paradossalmente, in ogni modo è un problema di doppio discorso. C'è la realtà economica e si sa esattamente quello che bisogna fare per chiudere tutte opportunità alla speculazione. E c'è il problema politico, dove c'è il bisogno di indirizzare al proprio popolo pensando alle prossime elezioni. Quindi, per concludere, ha ragione il ministro Tremonti quando dice, insomma, e anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, quando dicono che gli Eurobond, una parte del debito dei singoli paesi dovrebbe essere ceduto a livello europeo, diventare un'obbligazione europea, questo renderebbe inattaccabile l'Europa? Sì. Sì, perfetto. Sì. Lei glielo ridirà a Nicolas Sarkozy, perché lei è consigliere. L'ho detto. Detto. Non sono consigliere. Non è consigliere? No, sono ascoltato. Ascoltato. È più ascoltato lei o Carla Bruni, secondo lei? Va bene. Grazie a Jean-Paul e Fitoussi in collegamento con noi da Parigi, dove è economista e insegna all'Istituto di Studi Politici di Parigi, nonché presidente dell'Osservatorio francese sulla congiuntura economica. Arrivederci. Allora, da Parigi a Cortina, il volo non è pindarico perché nel frattempo si è chiusa anche Cortina Incontra, la edizione invernale. Enrico Cisnetto, grande ideatore, collega, editorialista, si occupa spesso di economia su vari quotidiani. Buonasera Enrico. Buonasera, chiudendo, non c'è ancora chiuso. Si sta chiudendo. L'ultimo incontro e tra poco si chiuderà. Allora, la base turca, diciamo, me la terrei tutta la puntata, visto che oggi ragioniamo di disoccupazione a record nel sud, attacco ai debiti sovrani. Ma anche da questo ciclo di incontri, Enrico, è emersa un'Europa divisa che non riesce, se non faticosamente, a trovare linee solo quando ormai la situazione è fragile. E un'Italia divisa dentro un'Europa divisa? Sicuramente è emerso che l'Italia è troppo divisa e ed è emerso anche che si fa fatica a uscire anche per discussioni che magari apparentemente riguardano non strettamente la politica, a uscire dal meccanismo dicotomico o di qua o di là, che è un meccanismo che non aiuta a rafforzare il paese e le sue capacità di decisione. Certo, poi fa ancora più impressione, anche se forse diciamo rispetto all'opinione pubblica è un po' più lontano, la mancanza di capacità di decisione dell'Europa. Però io non credo, diversamente da quello che ho sentito dire a Fitoussi, che il problema stia nei governi singoli, perché i governi singoli, al di là delle diversità che ciascuno ha e le condizioni che vive, fanno il loro mestiere. Il vero problema è la mancanza di un governo europeo, ma un governo europeo non ci può essere nella misura in cui a suo tempo si è scelto e si è continuato a scegliere di rimanere solo con un'unità monetaria e non politica. Con un'unità politico-istituzionale. Enrico, dopo il GR ti farò una domanda invece sull'iniziativa politica che dovrebbe prendere il ministro Tremonti. Il direttore del Censis diceva: defiscalizziamo le imprese, le nuove società dei giovani. Io ho aggiunto anche le imprese che si fondono. Qualcosa di politica industriale. Dica il governo qualcosa di politica industriale. La tua proposta dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciotto e sei minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo anche molti messaggi, quindi la risposta al signor Enrico Cisnetto. Faccio solo notare che Jean-Paul Fitoussi ha detto, da un lato, che la posizione tedesca è irrealistica, perché se dovesse saltare per aria un paese europeo dovremmo salvare le banche tedesche, francesi, che hanno investito i soldi. Dall'altro ha detto che se tutti i paesi europei applicassero il rigore che formalmente chiede la Germania non esporterebbe più niente, adesso esagero, in Europa, perché la Germania si avvantaggia anche e soprattutto dei consumi degli europei che comprano prodotti made in Germany. E adesso veniamo all'ultima domanda per Cisnetto. Allora, Enrico, le proposte di politica industriale, politica politicienne. Già accennato tu, sono interessanti. Defiscalizzare l'accorpamento delle aziende, visto che il nostro capitalismo è troppo nano, è sicuramente una cosa necessaria, di cui si parla da tempo, non si è fatta. In generale, defiscalizzare tutto quello che riguarda l'attività produttiva e terziaria è sicuramente necessario. Il problema è che non ci sono i soldi, perché è inutile poi, Fitoussi può anche dire che la Germania ha torto, ma insomma. Qui noi abbiamo sostituito del debito privato, che era quello che è stato l'origine della grande crisi mondiale di 3 anni fa, con del debito pubblico, e questo debito pubblico in qualche modo bisognerà pur recuperarlo. Allora il problema è che noi non l'abbiamo fatto durante la crisi, ma l'avevamo già, abbiamo 1870 miliardi di debito, il 120% del PIL, non possiamo certamente aumentarlo e quindi non possiamo spendere soldi che non abbiamo. Quindi dobbiamo recuperare soldi da poter spendere, che poi la spesa sia sotto forma di riduzione delle tasse, quindi minori entrate o altro, questo lo si vedrà. Come si fa a recuperare questi soldi? Intervenendo sulle 3 voci fondamentali della spesa pubblica in Italia. La spesa previdenziale, facciamo subito un aumento a 67 anni dell'età pensionabile, senza pensarci troppo su. 2, la spesa sanitaria, prendiamo atto che il trasferimento alle regioni della competenza sanitaria ha fallito, perché se 6 regioni su 20 sono in default e altre sono in difficoltà, e poi il 70% del buco è spesa sanitaria, basterebbe mettere i prefetti lì. Vai. Terzo, semplifichiamo questo elefantiaco sistema istituzionale attraverso l'abolizione delle province, di tutte, non di quelle che tutte. Riduzione del numero dei comuni, il 70% dei comuni è sotto 5.000 abitanti, quindi riduciamo almeno a metà quegli 8.100 comuni che abbiamo, accorpiamo le regioni più piccole e quelle più grandi e ridefiniamo le competenze delle regioni. Se facciamo questo e in più facciamo un intervento, una tantum sul debito pubblico, secondo me ricreiamo le condizioni sia per fare il controllo della spesa e per sistemare i conti pubblici, sia per rilanciare l'economia, ma bisogna avere il coraggio Delle riforme. Sono d'accordissimo con te, ne aggiungo un'altra: la lotta all'evasione fiscale, di pari passo con la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Grazie Enrico Cisnetto e complimenti all'edizione invernale di Cortina Incontra, che si sta chiudendo in questi minuti. Buon anno anche a te, Enrico. Oh, andiamo a chiudere con una bella notizia, con una bella storia, visto che abbiamo aperto con la disoccupazione da record in Italia nei giovani. Un'altra storia di imprenditori che accettano la sfida, che hanno successo e che ha un cotè, anche un lato natalizio, perché si occupa anche dei bambini diversamente abili. L'azienda si chiama P-Quadro, nasce in provincia di Bologna, produce borse e accessori, quindi il settore più copiato, più imitato, più falsificato dalla Cina. E proprio in Cina, adesso si arrabbieranno gli ascoltatori, ha deciso di delocalizzare totalmente la produzione. Ci racconta cos'è P-Quadro questa scheda. Borse, pelletteria e Cina. Un abbinamento che nel sentire comune è sinonimo di imitazioni, contraffazione e quindi di danno economico. Ma c'è un'azienda italiana che, nata nella provincia bolognese poco più di 20 anni fa, senza perdere le sue radici, ha spostato proprio in Cina la produzione di borse e accessori. Il 40% del totale esce infatti dallo stabilimento di Zhongshan nel Guangdong, dove lavorano 400 operai. Il restante 60% della produzione è dato da outsourcing nella stessa area geografica. Italianissima è invece la materia prima e la capacità tutta italiana di lavorare la pelle, frutto di esperienza secolare inimitabile anche per i cinesi. Ma come avviene il processo produttivo? Dal nostro paese vengono spediti in Cina i progetti e i pellami italiani, che una volta finiti tornano in Italia, dove sono controllati e organizzati per rispondere ad un ordine in meno di 24 ore. Un'organizzazione che rende possibile l'approvvigionamento costante dei punti vendita, che in 50 paesi sono circa 1500, incluse 91 boutique a insegna P-Quadro, 49 in Italia e il resto all'estero, di cui 12 in Cina. Allora, questo è il processo produttivo della P-Quadro, che molti di voi conoscono come marchio. A noi interessava, come stiamo facendo in queste settimane e mesi, raccontare le esperienze degli imprenditori che ce la fanno, che diventano leader. Abbiamo avuto le fattine delle Winx a fine anno e poi il gruppo Elica sulle cappe, premiato come best place where to work, il miglior posto dove lavorare, e che anche lì ha acquisito un concorrente cinese, l'ha proprio comprato, e adesso è la volta di P-Quadro. Avete sentito che insomma tutta la produzione viene fatta in Cina. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Marco Palmieri, che è presidente e amministratore delegato di P-Quadro. Buonasera. Salve. Allora, voi spedite la pelle, che è prevalentemente italiana, in Cina, la fate produrre le borse lì e poi tornano in Italia per i controlli. Tra l'altro, voi avete recentemente aumentato anche gli stipendi, giusto, dei salari minimi dei vostri dipendenti in Cina? Sì, sì, beh, noi abbiamo approcciato la Cina già da qualche anno e lo abbiamo fatto come se fosse uno stabilimento italiano, quindi abbiamo portato competenze italiane, impianti italiani, management italiano e anche uno standard etico italiano. Quindi si lavora 8 ore al giorno, paghiamo welfare regolarmente per tutti, ci sono delle condizioni in fabbrica del tutto simili a quelle italiane. Ecco, su questo vedo già molti messaggi al 349-238-6666, la polemica che abbiamo aperto qualche giorno fa è: meglio essere comprati dai cinesi o finire sotto un ponte? Io ripeto, gli investimenti non hanno colore politico, non hanno odore, e quindi che siano cinesi, indiani, tedeschi, la mia linea è molto chiara, però vedo ancora molta resistenza a capire che, volenti o nolenti, la Cina è il leader del XXI secolo, sta tracciando la geografia economica del pianeta assieme all'India, assieme al Brasile, e noi contiamo sempre meno. Non è che questo programma sia la quinta colonna cinese in Italia, è semplicemente che prendiamo atto della situazione. A tutti noi piacerebbe vivere con il futuro di una volta, con le prospettive crescenti, il futuro ha attese decrescenti e non è più quello di una volta. Detto ciò, le faccio ascoltare quello che secondo quella che è l'esperienza di Francesco Casoli, presidente del gruppo Elica, che commentando quanto diceva invece Straffi delle Winx, che ha detto: insomma, il problema degli italiani è che noi cerchiamo di imporre i nostri marchi, il nostro modello, il nostro stile di vita a paesi che hanno il loro. E continuiamo a pensare che, siccome siamo italiani, siamo belli, siamo fighi, siamo eleganti, si mangia bene, tutti devono comprare il nostro prodotto, bisogna vendergli quello che vogliono loro, non quello che vogliamo noi. Caso gli ho aggiunto anche un'altra cosa, ci siamo comprati il concorrente cinese. Noi non abbiamo aperto uno stabilimento in Cina, noi abbiamo comprato un nostro concorrente. Oh, quindi avete voi comprato un cinese? Sì, noi ci siamo comprati un cinese e quindi questo concorrente aveva la sua bella rete di distribuzione, i suoi bei 600 dipendenti, che ora sono diventati 600 dipendenti dell'Elica, che speriamo diventino presto anche molto contenti di esserlo, nel senso che vorremmo vincere anche lì un bel premio The Great Place to Work. Comunque, a parte questo, noi vediamo nella Cina un concreto mercato, tant'è che veramente abbiamo comprato una rete di distribuzione, quindi abbiamo comprato una piccola Elica cinese che viveva in questo mercato, che aveva i suoi modelli e da cui stiamo prendendo un sacco di idee. Cioè state facendo voi cinesi dei cinesi, state rubando le idee cinesi. Assolutamente, assolutamente sì, ma guarda, se noi riusciamo questa è stata finora la nostra forza, diventare messicani in Messico, polacchi in Polonia, cinesi in Cina, se pensiamo che noi siamo i più ganzi del mondo e che devono tutti quanti fare quello che facciamo noi, allora difficilmente riusciremo ad essere competitivi in giro per questo splendido mercato che sta diventando sempre più globale, ma che ha sempre di più le proprie specificità. In ogni mercato ci sono delle usanze e le devi rispettare. Questo è quello che noi stiamo facendo in Cina come nel resto del mondo. Allora, Presidente Palmieri, quindi P Quadro, ha sentito Francesco Casoli, ha detto non solo si sono comprati i concorrenti cinesi, li hanno anche copiato dalla Cina, gli copiano le idee e apprendono cosa produrre per quel mercato. Dopo il traffico, la sua di analisi, ricetta, quanto paga gli operai cinesi, quanti posti di lavoro italiani questi operai cinesi hanno rubato. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, Presidente Palmieri, il ragionamento fatto dal suo collega imprenditore Francesco Casoli era chiarissimo. Avete anche voi trovato in Cina qualche stimolo? Avete copiato anche voi le borse, magari bellissime, le borse italiane che vengono copiate dai cinesi, a loro volta copiassero le borse cinesi? Prego. La Cina è un mercato che negli ultimi 20 anni è cresciuto, come tutti sappiamo, a ritmi straordinari. E le persone che lavorano hanno delle motivazioni che in gran parte in Occidente si sono persi, proprio perché hanno vissuto un periodo straordinario della loro storia economica, con un miglioramento delle condizioni di vita straordinarie, e questo le ha resi anche, se si vuole, più creativi, ma sicuramente più motivati. E quindi sono assolutamente d'accordo con Casoli, abbiamo tratto anche noi un sacco di idee, in modo particolare nei processi produttivi. La cosa che batte immediatamente all'occhio è che gestire aziende da 600-700 persone in Asia non è come gestire un artigiano pellettiere in Italia, quindi modelli assolutamente diversi che sono nati in quell'area del mondo, quindi abbiamo preso da loro questo modello organizzativo. Abbiamo imposto in termini industriali uno standard etico di cui siamo orgogliosi e questo assolutamente l'abbiamo imposto noi e oggi sta pagando perché ad esempio nelle nostre fabbriche c'è un turnover bassissimo. Cioè non se ne vanno. Mi scusi, chiedono molti ascoltatori il rapporto tra dipendenti italiani e dipendenti cinesi, qual è? In termini di costo? No, in termini di numeri proprio, cioè quanti ne avete in Cina? Abbiamo detto 400 diretti più il 60% 400... in outsourcing, e quanti ne avete in Italia? Ne abbiamo 170 in Italia e circa 400 in Cina. Tenga conto che nell'ultimo anno ne abbiamo leggermente ridotti in Cina e un po' aumentati in Italia. Tanto domanda, così risponda anche al 349-238-6666. Se non aveste la produzione in Cina, avreste i 170 dipendenti italiani? Oppure, ragione chi dice, quei 400 lì hanno rubato il posto, gli italiani dovevano essere 570 in Italia, non 170 in Italia e 400 in Cina? No, quei 400 in Cina mantengono, tra virgolette, assolutamente non le mantengono, ma consentono di lavorare ai 170 in Italia. È nel mix che nasce il valore. Io non credo più o al Made in Italy o al Made in China. Si prende cosa sanno fare bene i cinesi e cosa sappiamo fare bene noi, lo si mescola insieme e si crea un'azienda globale. Bravo. Allora, no, siamo assolutamente d'accordo su questo. Il tema che però mi interessa molto per gli imprenditori in ascolto è di nuovo, scusi se insisto, ma il tema del vendere quello che vogliono i mercati. Non pensare che il cinese possa acquisire l'eleganza, lo stile rinascimentale italiano. Allora, voi come fate a vendere? Perché oltre a produrre in Cina avete 49 punti vendita all'estero, 1500 punti vendita di cui 91 boutique con insegna in PP quadro, di queste 91, 42 sono all'estero, quindi siete presenti in 50 paesi se non ricordo male. Come fate a capire i gusti? Cioè, siccome siamo italiani, gli vendete le borse P quadro, i trolli P quadro italiani? I colori no, italiani? Tenga conto che noi nella grande Cina abbiamo 19 negozi e 3 anni fa non avevamo nemmeno uno. Le do un dato particolare. I costi sostenuti in Cina sono solo il 20% in valore del nostro fatturato e la metà di questo valore lo riesportiamo già in Cina. Cioè, mi faccia capire che non ho capito. Lei dice il 20% dei vostri costi è quello cinese? Cioè, il costi cinesi, il nostro fatturato, fatto 100 il vostro fatturato, il 20% è quello che sono i vostri costi in Cina. Però, esatto. Però di questo 20, quindi quasi un 10, lo riesportiamo in Cina. Esatto, nella grande Cina. E 3 anni fa era zero. Perché abbiamo iniziato 3 anni fa a vendere. E tra 3 anni praticamente mecceremo l'importato. Mecceremo è un termine orribile, Palmieri. Me lo dica in italiano. Praticamente i valori saranno simili tra 2 o 3 anni. Cioè, tanto importeremo quanto esporteremo. Quindi diciamo che la nostra bilancia commerciale rispetto alla Cina andrà in pareggio. Certo. Nel giro di 2 o 3 anni. Per cui, quindi questo evidenzia voi avete un 20% come la Cina è un mercato. Voi avete un 20% di costi perché producete in Cina, però allo stesso tempo la Cina diventa anche un mercato per le esportazioni vostre, quindi la borsa P quadro o il trolley dalla Cina torna in Italia, viene controllata, marchiata, tutto quanto, poi però siccome state vendendo con 19 punti di vendita in Cina, ritorna in Cina a questo punto però con guadagno italiano, cioè va nella nostra bilancia dell'export, se ho ben capito. Esattamente. Che è il modo anche, tra virgolette, per fregare i cinesi, fargli produrre, rimarchiare qui e poi rivendergli quello che si sono prodotti. Cioè questo sarebbe il segreto, se a loro però piace. Il motivo per cui io ho detto però che questa puntata e questo approfondimento sarà anche un approfondimento natalizio è per un'altra cosa con cui vorrei chiudere, abbandonando per un secondo la Cina, è una bellissima cosa. Voi avete nel centro di ricerche vostro, dei designer, di quelli che devono capire che borsetta andrà, che colori avrà, avete avviato un'operazione che non è assolutamente pietistica, non è una foglia di fico, perché vi sta portando anche soldi con i bambini down. Ce la può raccontare, per favore? Sì, allora, i soldi le porta tutti a loro, ma questo non fa fatto, noi vorremmo... No, dico, vuol dire che non è un'operazione in perdita, è un'operazione che fa guadagnare i bambini down stessi. Assolutamente. Sì, praticamente, casualmente, non mi sono mai occupato di ragazzi che avessero dei problemi, diversamente abili, ho notato che in realtà questi ragazzi hanno una creatività straordinaria, gli abbiamo proposto di disegnarci delle borse. L'abbiamo iniziato l'anno scorso, anzi 2 anni fa, nel 2009, hanno disegnato un modello molto divertente, particolare, tutto fatto da loro, noi gliel'abbiamo prodotto e lo abbiamo trattato come un prodotto P4, quindi l'abbiamo presentato alla stampa, fatto attività di pubblica relazione, data un po' di visibilità e ne abbiamo venduto in un mese più di 10.000 pezzi. Abbiamo rifatto la stessa cosa nel 2010, con 4 prodotti, più un prodotto fatto da più un quinto prodotto fatto da un'azienda terza, e abbiamo venduto 12-13.000 pezzi. E in più abbiamo aperto dei temporary store, quindi dei negozi temporanei giusto per un mese, in cui abbiamo messo i ragazzi a lavorare e quindi hanno potuto progettare il prodotto, vederselo realizzato e partecipare anche alla vendita del prodotto, quindi un'esperienza per loro straordinaria. Abbiamo erogato loro tutto il margine nostro, oltre 200.000 euro, e in realtà ci piacerebbe costruire un modello che magari anche altre aziende potrebbero seguire, magari aiutate anche da noi, cioè tutti quelli che hanno bisogno di creatività potrebbero avvicinare queste persone, selezionarle naturalmente per l'attitudine creativa che hanno e mettere nel loro circuito, se hanno bisogno di creatività, questa loro creatività, così da emancipare questi ragazzi, consentirgli di lavorare e di avvicinarsi a un mondo nostro che purtroppo misura la vita anche col denaro e dare loro una straordinaria opportunità. L'abbiamo fatto come Pquadra e come famiglia Palmieri, ne siamo contenti, speriamo di aprire ancora qualche nuovo negozio il prossimo anno anche col marchio Happy Box, che è questo prodotto, e speriamo di avere successo. Senza pietismo, senza beneficenza, stando sul mercato, facendo guadagnare questi ragazzi, appunto, 140.000 l'anno scorso e 9.000 pezzi venduti, quest'anno siamo già a 15.000 pezzi. Anche questo per gli imprenditori, i diversamente abili, appunto, sono diversamente abili, non abili, e ogni tanto qualche idea può arrivare anche da lì. Palmieri, grazie, perché lei entra nella scia storica di questo programma, dei Gasparotto, dei Cucinelli, dei Casoli, degli imprenditori illuminati, ce ne sono tanti, vorremmo ospitarli tutti. Grazie al presidente, amministratore delegato di Pquadra, Marco Palmieri. Grazie a voi, è stato un piacere. Bei personaggi, caro Giuseppe Cruciani, illuminati come tanti altri, solo alcuni riusciamo a coglierne. Pquadra, marchio bellissimo, fa produrre gente, cinesi, e gli rivende le borse, poi usa anche i bambini Down. Giuseppe, gente che non si lamenta, soprattutto gente che non si lamenta, eh sì. E tu, ti lamenti? No, perché dovrei lamentarmi? Beh, dipende di cosa parlerai. No, di cosa parlo? Qui solite robe. Ah sì, oddio. Napolitano un po' la fatica di vita. Napolitano un po' contro la Lega, sul tricolore, chi ha incarichi di governo non dovrebbe offendere il tricolore, faremo risentire tutte le sparate leghiste contro il tricolore, c'è ancora qualcosa che riguarda Marchionne, polemiche su Marchionne. Siamo lì. E ti stai leggendo la Gazza? Eh sì. Che vuoi che legga il giorno dopo le partite? Allora, grazie anche questa settimana a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Grazie a voi in ascolto, l'augurio di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.